Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Mentre il Presidente del Consiglio vola a Berlino per proseguire il suo tour europeo, gli occhi sono puntati sul Mediterraneo e sugli arrivi di migranti, dei quali alcuni risultati positivi al coronavirus, al loro approdo in Calabria, Roccella Ionica, mentre poco lontano da Mantea scattava la protesta dei cittadini per evitare il trasferimento in paese di alcuni di costoro. Oggi i ministri degli interni europei si riuniscono per parlare anche di questi temi. Sul piatto in Italia anche la prosecuzione dello stato di emergenza, forse fino a fine anno, forse fino a ottobre, forse per nulla, comunque tra le proteste dell'opposizione e la vicenda autostrade, con Conte che dice esplicitamente che la proposta dei Benetton non basta e si va verso la revoca. Se volete segni di ritorno alla normalità, cercate nello sport. Comunque, Leclerc e Vettel che si scontrano e disastro Ferrari e le polemiche dell'Atalanta sugli arbitri. Sembrano proprio i bei vecchi tempi prima della pandemia. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Eccoci, care ascoltatrici, cari ascoltatori, lunedì 13 luglio, sono le 6:32 minuti circa. E ci siamo. Buon lunedì, Buon lunedì. La squadra di 24 Mattino di stamattina è composta da Carmelo Lauricella in regia, Danilo Di Trani in assistenza, Giorgio De Luca in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. E voi, ovviamente. 349-238-6666, i vostri WhatsApp audio, gli SMS se volete intervenire, se volete dir la vostra. Ci siamo. Allora, insomma, la giornata ve l'ho parzialmente descritta un attimo fa. Da cosa iniziare? Direi che forse possiamo iniziare proprio dalla questione degli sbarchi, che è quella al centro della scena insieme ad Autostrade, che fa discutere, che ritira fuori ovviamente un asse di divisione tra centrodestra e centrosinistra storico. Il sindaco di Roccella Ionica, iniziamo da qua, va Vittorio Zito con l'arrivo appunto di questi migranti, sono sbarcati 28 positivi a Covid-19, sentiamo Zito. Quando sbarcano a Roccella non sbarcano dell'East Island, sbarcano in un posto che per loro è la continuazione della vita. Cioè, dietro di loro non hanno nulla, c'è un dovere di noi, siamo un popolo marinaio e quindi sappiamo che a mare non si lascia mai nessuno. Insomma, come sentite, Zito dice: è nostro dovere accogliere queste persone, e prosegue così. Basta guardare negli occhi questi ragazzi dei 13 anni per dire solo ed esclusivamente: mi metto a disposizione per quel pezzo che mi compete. Li abbiamo sistemati in un ex albergo in piena sicurezza, voglio dirlo, in piena sicurezza per loro, ma soprattutto per i cittadini e per i turisti presenti. Sono fenomeni che vanno gestiti, non vanno amplificati. E ad Amantea a proteste per questi arrivi, soprattutto per i timori, poi confermati in realtà dai tamponi effettuati, che una parte sia infetto, abbia contratto Covid-19. Amantea è un paese tranquillo, un paese che non ha avuto nessun caso se non di qualcuno che è venuto da fuori, e non vogliamo problemi per queste persone. Dove è chiaro, vi è chiaro che non è una questione di razzismo, cioè lo senti dalla voce, non è una questione di razzismo, non è una questione di immigrati, cioè se gli avessero detto arrivano 12 cittadini di Roccella Ionica con Covid-19 avrebbero probabilmente protestato nello stesso modo, credo. Almeno a sentire questa persona, almeno a sentire quello che dice questa persona. E va bene. L'altra questione ovviamente è autostrade. Qua stiamo alle dichiarazioni di un paio di giorni fa di Giuseppe Conte. Sentiamolo, va su Autostrade per l'Italia, su Aspiva. O arriva in extremis una proposta a cui il governo non potrà dire di no, perché evidentemente sarà una proposta particolarmente vantaggiosa per la parte pubblica, perché noi ci occupiamo di tutelare gli interessi di tutti i cittadini italiani, alla manutenzione, alla sicurezza delle infrastrutture, agli investimenti e all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni. Non possiamo più regalare soldi a nessuno, men che meno ai privati. Quindi o arriva una proposta a cui non sapremo dire di no, perché addirittura è una proposta che ci permette di realizzare, date le condizioni attuali, nel miglior modo, più efficace, l'interesse pubblico, oppure si chiama procedimento di revoca. Va bene, poi oggi in un'intervista al Fatto Quotidiano dice i Benetton ci prendono in giro, così sarà revoca. Cara Silvia Brasca, giornalista della 7, un po' che non ci sentiamo. Silvia, come stai? Sì. Buongiorno. Bene, tutto a posto. Andiamo bene. Senti, mi pare che stia tornando sulla scena tutta la questione dell'immigrazione, che poi sarà presa in vari modi, da destra, da sinistra, troverà le vesti di emergenza sanitaria oppure di emergenza sbarchi. Era un po' sotto traccia da qualche giorno, devo dire, eh? Sì, era lì in mezzo al mare su qualche nave delle ONG ancora che si riaffacciava la questione. Estate torna, ma questa volta il carico col problema Covid è davvero esplosivo, è ancora più incendiario, lo vediamo dai titoli dei giornali questa mattina. Insomma, abbiamo il blocco dei giornali, chiamiamoli sovranisti, appunto, che parlano già che importiamo gli ammalati. Del resto, guardandola con gli occhiali normali, con le notizie, noi abbiamo questa bella pagina di Fiorenza Sarzanini dal Corriere, in cui c'è il piano del Viminale. Il Viminale è preoccupato perché il numero che dà dalla Tunisia, 10.000, sono sempre questi numeri, questi sì, che arrivano dalla Libia che arrivano, e questi 10.000 pronti a salpare, e poi è l'altro che su 800 sbarcati negli ultimi giorni 80 sono positivi. Allora, insomma, lì c'è da stare attenti davvero. Sì, Silvia, poi questi numeri che uno non sa mai veramente come prendere, perché sono rapporti di intelligence che poi devono trovare naturalmente delle conferme, delle verifiche, però sono là questi numeri, 10.000 pronti a partire. E poi vedi che arrivano col veliero, non arrivano dalla Libia, arrivano da altre parti con il veliero. Quindi, insomma, anche questo sgocciolio insomma, preoccupa, e i cittadini di Amantea abbiamo visto i toni, insomma, Sì. Non sono come sempre, poi i protagonisti veri sui posti sono quelli più con i quali riesci quasi più a ragionare rispetto appunto a poi chi ti scrive reimportiamo il virus, ecco. Sì, detto ciò, ovviamente per guardare ai numeri, ricordiamoci che dati al 10 luglio, dal 1 gennaio al 10 luglio, sono dati del Ministero dell'Interno, li trovate sul sito e li aggiornano non quotidianamente ma quasi, come vedete non quotidianamente perché gli ultimi dati sono del 10 luglio, però i dati mostrano 8.000 sbarchi dall'inizio dell'anno, dal 1 gennaio, quindi non esattamente un'emergenza. L'anno scorso furono 3.000, però insomma le dimensioni sono dimensioni ampiamente gestibili. C'è la variabile Covid, che è quella sulla quale prestare attenzione. Se si fa l'allarme sul salumificio di Viadana, no? Per il numero di positivi, con i sindaci pronti a chiuderci e tutto, poi non pensare a non andare in allarme, ma proprio allarme sanitario, che è giusto, comprensibile, che va gestito. Ovviamente. Poi c'è tutta la questione autostrade, naturalmente, e la vedremo, perché martedì c'è un vertice, insomma entro martedì ci dovrebbe essere una decisione. Anche qua la vicenda è stata sospesa molto a lungo, a causa anche di Covid, ma non solamente a causa di Covid. Adesso finalmente arriviamo a questo Redde Rationem, nel quale insomma abbiamo i due fronti, perché se Conte dice queste parole al Fatto Quotidiano, alla Repubblica l'amministratore delegato di Atlantia dice scendiamo sotto il 51% ma restiamo nella società, adesso la battaglia se i Benetton debbano restare dentro oppure no. Insomma, qua sullo sfondo c'è la battaglia politica alla fine, tutta interna alla maggioranza, Silvia. Sì, da una ovvio interna alla maggioranza, e poi insomma qualche punto i 5 Stelle lo devono ottenere. Cioè, si è visto, non so, sulla TAV, quello qua non se si mettono in fila le dichiarazioni di tutti da quel giorno di agosto, nelle prime 48 ore, è stato quello, è diventato un punto identitario. Quindi non ce la fanno a tornare indietro, non possono tornare indietro come ha fatto su tanti altri punti. E la proposta appunto, come dici tu, parla a Bertazzo su Repubblica di Atlantia, è lì, e sì. Vediamo, ma è un punto che va al di là della questione, secondo me è proprio un punto di riconoscimento del Movimento 5 Stelle, che Conte ha fatto suo, ha fatto anche il vocione. È un po' come il MES, cioè ormai è un punto talmente irrinunciabile politicamente per un pezzo di questa maggioranza, che è molto difficile tornare indietro, anche a fronte eventualmente di una proposta che potrebbe essere accettabile. Certo, è proprio diventa uno specchio per i 5 Stelle, che già sono andati, insomma, hanno dovuto digerire. Su questo appunto è diventato, forse perché pensano che sia una più gestibile di altri alla fine, sì. Forse. E Conte, in questi mesi, io la voce più grossa, cioè il tono più perentorio, l'ho visto con su Autostrade. Se rifai di sentire la clip, ha un tono che io non gli ho sentito raramente. È vero. Sentiamo solo i primi 5 secondi di quel Conte che abbiamo appena sentito, quello su Autostrade, Carmelo, Lauricella, quello che abbiamo appena sentito. L'abbiamo fatto sentire, però ha ragione Silvia Brasca, perché facciamo sentire un po' il tono di Conte, che è tosto rispetto o al suo. O arriva in extremis una proposta a cui il governo non potrà dire di no, perché evidentemente sarà di solito il tono di Giuseppe Conte è molto morbido, mentre invece in questo caso hai ragione Silvia, è una giusta notazione, è un tono piuttosto duro. Facciamo così, vi lascio da parte tutto il tema della proroga dello stato di emergenza, che è una cosa della quale discuteremo in settimana ampiamente, su cosa vuol dire, cosa non vuol dire, mentre invece polemica e discussione del fine settimana è stata questa: le parole del sindaco di Milano Beppe Sala, che il cui nuovo protagonismo politico è un po' sotto gli occhi di tutti, quasi con l'idea, un po' di tutti, che si voglia ricandidare, sul tema delle cosiddette gabbie salariali. Ora, lui di gabbie salariali non ha mai parlato. Le gabbie salariali è l'idea, appunto, che ci siano degli stipendi differenziati sulla base del territorio del paese. Quindi, che ne so, al sud si vive con meno soldi, si deve guadagnare di meno, al nord, il nord, la vita al nord costa di più, o in alcune zone, per esempio nelle metropoli, costa di più, e quindi le persone devono essere pagate di più. Cosa dice Beppe Sala? Parla dei dipendenti pubblici e la mette così. Io capisco che è un discorso difficile da fare, però alla fine è chiaro che se il dipendente pubblico a parità di ruolo guadagna gli stessi soldi a Milano o, facendo l'esempio di Melania, a Reggio Calabria, è intrinsecamente sbagliato, nel senso che il costo della vita è diverso. E quindi parte mega discussione esattamente su questo. Vale la pena pagare, cioè bisogna pagare di più i dipendenti pubblici del nord rispetto a quelli del centro o del sud, oppure sulla base del costo della vita, del luogo nel quale lavorano? Il ministro agli affari europei, Amendola, sentiamo che dice. La proposta che ho letto, spero di averla letta bene, invece di una differenziazione dei salari nel pubblico impiego, credo che non sia una scelta condivisa non solo dalla politica ma anche dalle forze sindacali. La pubblica amministrazione deve essere trasformata, non a caso col decreto semplificazione stiamo lavorando per rinnovare tutte quelle che sono i ritardi, le burocrazie, per far funzionare meglio la pubblica amministrazione, ma credo che sia una responsabilità nazionale, non delle singole parti del paese. Oh, solo una precisazione per un ascoltatore, forse ha sentito male, non abbiamo parlato di 800.000 persone sbarcate. 800.000 persone sbarcate dal 1 gennaio sarebbe sì un'emergenza. Sono 8.000, ok. È un numero, concorderà con me, ridotto. Parliamo delle dimensioni di un piccolo comune italiano, ok. Non 800.000. Per carità, per carità. E un'altra precisazione con un altro ascoltatore. Non ho detto che le proteste ieri da Mantea non avessero un segno. È che dalle parole che abbiamo sentito, dalla protesta che abbiamo visto ad Amantea, non sembra che ci fosse uno stampo razzista in questa protesta, il non volere ma è semplicemente non volere le persone ammalate di Covid. Poi, se ci fossero gli elementi di razzismo, io questo non lo posso sapere perché non sono nella testa di queste persone. Il traffico. C'è chi la sceglie per il suo stile, chi per la tecnologia. Io la scelgo per avere tutto. A luglio Alfa Romeo Giulietta arriva prima degli incentivi, solo sulla pronta consegna. Con il finanziamento FCA Bank hai fino a 10.000 euro di vantaggi anche senza rottamazione. Anticipo zero e prima rata gennaio 2021. Alfa Romeo Giulietta. Facile raggiungerla, difficile superarla. Iniziativa valida fino al 31 luglio, soggetta ad approvazione FCA Bank. TAN 675 TAI GOT 46. Info su alfaromeo.it. Mattino. Torniamo adesso su un tema che ci è caro. A settembre è caro un po' a tutti, eh? A settembre ricomincia la scuola. Ma come? E per quanto, visto che poi si vota per le regionali e molte scuole saranno utilizzate come seggi? E come riescono ad organizzarsi le scuole? Buongiorno Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Presidi, bentornato, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, come vanno le cose? Beh sì, questo è un problema che noi come Associazione Presidi abbiamo già sollevato tante volte in passato e abbiamo sempre detto e ripetuto che a nostro avviso le scuole non dovrebbero essere seggi elettorali. Possiamo utilizzare tante altre strutture, per dire le caserme, però quelle inutilizzate, allora si potrebbe utilizzare questo, fare ricorso a questo tipo di strutture e non interrompere le lezioni delle scuole, tanto più in questo momento in cui, appunto a settembre, quando accadrà, si tornerà dopo un lockdown durato diversi mesi. Insomma, la scuola ha bisogno di concentrazione, di tranquillità e non di interruzioni continue. Sì. Mi sembra di aver capito che sia che è piuttosto difficile, eh? Mi sembra di aver capito che si possano trovare delle strutture di diverso tipo, almeno stando a quello che dice il Viminale. Senta, Gianelli, sul fronte della ripartenza, quali sono gli elementi più critici? Ma di gran lunga l'elemento più critico è quello del reperimento delle aule per contenere gli alunni in modo tale da distanziarli di almeno un metro. Questo è un allarme lanciato ormai da un po' di tempo. Non tutte le aule sono spaziose, anzi la maggior parte delle aule italiane sono piuttosto anguste, perché sono ospitate in edifici vecchi, superati. Quando dico vecchi intendo di un secolo e più anche, e quindi abbiamo difficoltà a sistemare gli alunni in modo che siano distanziati. I presidi sono le prese con il monitoraggio, la rilevazione degli spazi. Soltanto pochi giorni fa il CTS ha fatto capire, ha dichiarato che il metro va inteso in senso statico, cioè quando gli alunni sono seduti, e quindi quando si alzano, quando si muovono, possono anche avvicinarsi a più di un metro, ovviamente con la mascherina. Sì. Questo sta facendo rifare i calcoli di nuovo, avevate delle Gianelli, avevate delle indicazioni, adesso tireranno fuori un'altra misurazione e diventerete matti completamente. Senta, Gianelli, si riparte al 100% a settembre oppure no? Beh, diciamo che l'auspicio e l'intenzione... Non mi dica l'auspicio, mi faccia una previsione. La previsione è che si riparte al 100% con tutti gli alunni in presenza, però ripeto, il grosso interrogativo è quello del reperimento delle aule. Le aule che non ci sono è un po' difficile crearle dal nulla. Non ve le potete inventare? No. Come si stanno muovendo i vostri associati? Stanno lavorando tantissimo, mai come quest'anno sono stati impegnati sia quando si è trattato di avviare la didattica a distanza che adesso con queste nuove attività, quindi fa piuttosto male poi leggere di tanto in tanto delle polemiche sollevate in modo molto pretestuoso e molto artificioso da persone che invece ricoprono altri ruoli istituzionali e non dovrebbero puntare a separare quelli che i lavoratori della scuola, come invece avviene sostenendo. A chi si riferisce? C'è una senatrice dei 5 Stelle che periodicamente se la prende con i dirigenti scolastici, lei a suo avviso di guadagnare troppo, peccato che così non sia, e quindi è veramente un modo di separare e di dividere, è un modo di affrontare il problema della scuola, non ne abbiamo bisogno. Non ne avete bisogno. Grazie Antonello Gianelli, presidente dell'Associazione Presidi. In bocca al lupo per questo lavoro. Torneremo a sentirci sicuramente. Oh Silvia, qua è la questione a lungo ignorata che adesso però arriva al suo cuore. Io mi ricordo, questo è anche è proprio il periodo dell'anno in cui sui dorsi locali dei quotidiani leggiamo mancano, c'è sempre le aule, appunto, che quanti insegnanti, quante aule, che per cui ogni anno già l'inizio dell'anno scolastico sembrava già difficoltoso, no? E quindi immaginiamocelo, e lì ci vuole davvero, sono molto vicina a presidi, insegnanti, perché è davvero la cosa più delicata del nostro paese, l'istruzione dei nostri figli, cioè il nostro futuro, questo qua è il nostro futuro. Quest'anno è andato come è andato, si può ancora riparare, ma se il prossimo anno non si inizia bene, insomma il problema c'è un problema proprio di istruzione, di educazione, con il problema dei più deboli che rimangono indietro. Sì, devo dirti Silvia, qua dobbiamo chiudere. Io per carità mi fido dell'esperienza di Gianelli, che giustamente professa ottimismo, però questo 100% mica sono sicuro, in tutta sincerità. Proprio su quelle strutture scolastiche vecchie, non facile. Molto difficile. Grazie Silvia Brasca, giornalista della 7, per essere stata con noi.